anche avvisati relativamente a tutte le iniziative che si tengono presso questa biblioteca. È una settimana molto ricca, quindi adesso iniziamo questa giornata con la presentazione della dottoressa Catiocchi, Le vie d'acqua dell'antico Tirolo, una collaborazione fatta con l'Archivio di Stato presso il quale vengono effettuate in settimana delle visite guidate, di cui poi parlerà la dottoressa Zaccaria dell'Archivio di Stato. E ricordo invece altre iniziative per domani occasione della giornata della liberazione. Anticipiamo con la presentazione di un libro, La Polizia Trentina a confini del Reich, una presentazione che si terrà domani sera qui alle 18, mentre al mattino al Teatro Cristallo ci sarà un'esposizione di libri, un'esposizione bibliografica e in collaborazione con l'ANPI. Ci sarà poi il 24 aprile la sera lo spettacolo che domani mattina verrà offerto per le scuole presso il Teatro Cristallo, verrà invece presentato la sera del 24 aprile sempre al teatro, uno spettacolo legato alla Resistenza. Vi ricordo inoltre che venerdì è la giornata mondiale del libro, quindi chiunque faccia un prestito presso una delle biblioteche della città riceverà in omaggio un libro, in particolare il libro del Premio Nobel per la Letteratura 2009 di Herta Müller. Ora lascio la parola alla nostra relatrice Catiocchi, se vuole presentarsi un attimo, alla dottoressa dell'Archivio di Stato, che così vi presenteranno la giornata e l'iniziativa e la relazione di quest'oggi. Buonasera, innanzitutto benvenuti. Io vi parlerò, appunto, come vedete qui dal titolo, sulle vie d'acqua dell'antico Tirolo, quindi la mia relazione verterà, diciamo, sulla navigazione, sulla fluidazione, sui corsi d'acqua del Tirolo tra l'età medievale e la fine dell'antico regime, e la mia, appunto, relazione è strettamente collegata con la mostra che la dottoressa Zaccaria ha allestito e coordinato presso l'Archivio di Stato. Quindi direi di far parlare lei e poi passerò io direttamente a illustrarvi la parte storica. Brevissimamente, per non rubare tempo prezioso, vi dico solo che abbiamo collaborato con la Biblioteca Claudia Augusta in occasione della Settimana della Cultura, che è appunto questa settimana, quindi organizzata dal Ministero Beni Culturali, e abbiamo organizzato questa piccola mostra, questa esposizione nel nostro deposito sotterraneo, per cui si scende di due piani, cioè questa cosa un po' misteriosa, devo dire, e si scende e si vedono, c'è un percorso, abbiamo allestito un percorso attraverso i più antichi documenti che ci parlano dell'acqua in questo territorio, ancora antiche donazioni imperiali che parlano anche delle acque collegate alle proprietà che vengono donate, e per poi arrivare attraverso i secoli, attraverso le viti, i contadini che bisticciano per questo uso dell'acqua e attraverso le mappe che ci parlano della canalizzazione di questi corsi d'acqua e ci parlano dei mulini, queste mappe molto colorate del 500-600, molto interessanti io trovo, e per arrivare fino al 900 con alcuni esempi di regolazione delle acque del 900 e anche per esempio c'è un piccolo esempio di sopra Bolzano, la filtrazione delle acque per rendere l'acqua potabile con un'impresa della Germania che prepara tutto il progetto, per cui ci vedono queste carte. Insomma, è un percorso, un itinerario attraverso quasi 8-9 secoli di storia che vi invito senz'altro a vedere. Noi organizziamo delle visite guidate alle 9 e alle 11 di mattina. Potete prenotarvi, ma potete anche venire tranquillamente a quell'ora e saremo lieti di ospitarvi nel nostro istituto. Vi ringrazio. Ecco, per motivi logistici adesso io mi posizionerò in fondo per far andare avanti la presentazione in PowerPoint e insomma state qui che cominciamo subito. Thank you. di iniziare la mia relazione vi voglio invitare caldamente ad andare a vedere l'esposizione delle mappe dell'Archivio di Stato, perché in realtà sono cose anche molto particolari, sono molto rare e di difficile anche consultazione, per cui credo che questa sia un'occasione forse unica di poter approfittare di una visita con un commento e la spiegazione appunto delle persone che si occupano della conservazione di questi materiali che vi dico appunto sono molto rari. Le pratiche della navigazione lungo i corsi d'acqua hanno radici antiche e già gli scrittori di età romana annotavano che della navigazione sul Danubio e su altre vie fluviali. Fin dall'epoca antica e per tutto il Medioevo e anche per la prima età moderna, i viaggi fluviali furono preferiti a quelli via terra perché erano più rapidi e di conseguenza i costi da sostenere erano più bassi, a differenza di quelli dei viaggi invece lungo le strade, che erano spesso in pessimo stato, difficili da percorrere con i mezzi di trasporto a disposizione e per lo più anche pericolose per i banditi che le infestavano. In Baviera il trasporto sui fiumi è testimoniato a partire dal IX secolo, mentre per il Tirolo bisogna aspettare il XIV secolo per avere a disposizione le prime notizie. Questi si riferiscono alla parte settentrionale della contea e precisamente alle cosiddette naves che viaggiavano sul fiume Inn e ancora a zattere che viaggiavano sul Lech, tributario del Danubio. Per l'Inn la documentazione attesta che nel 1347 l'abbazia di Georgenberg ottenne l'esenzione doganale per 6 navi cariche di grano che viaggiavano sul fiume. Oltre a informarci sul trasporto di grano, di sale, di vino che i conventi bavaresi acquistavano nella zona di Bolzano ed erano trasportati sull'Inn, i documenti offrono notizie sui viaggi di compagnie di cavalli e di soldati. Il famoso storiografo Marx Sittich von Wolkenstein, nel suo manoscritto intitolato Landesbeschreibung von Südtirol del XVII secolo, dedica alcuni passaggi alla navigazione sui fiumi del Tirolo. E a proposito dell'Inn, che qui vedete rappresentato in questa incisione del XIX secolo, scrive che il fiume dava grossi profitti alla valle dell'Inn. Dal Hall si spedivano grandi quantità di sale e tutto il legname da ardere che veniva utilizzato nella salina, nella Salzpfanne di Hall appunto, proveniva dall'Engadina ed era trasportato sulle sue acque. Nel XVIII secolo il miglioramento delle strade portò al progressivo aumento dei trasporti via terra a scapito di quelli fluviali. Tuttavia, nella prima metà del XIX secolo, per alcune merci era ancora utilizzata la via fluviale dell'Inn, in particolare per i trasporti di cereali, di carbone, di legname e di pietra. Nell'Ottocento, sempre per l'Inn, fu fatto un tentativo di introdurre la navigazione a vapore, ma questi tentativi dovettero essere ben presto abbandonati per la morfologia del fiume e per la presenza di banchi di sabbia. La costruzione poi della linea ferroviaria nel 1859 e la costruzione della linea di Bressanone nel 1875 portarono alla cessazione di questa attività. Dopo gli anni 80 dell'Ottocento, le zattere sul fiume Inn transitarono solo molto di rado. Per quanto riguarda invece, veniamo alla parte meridionale della contea, cioè l'attuale diciamo, provincia di Bolzano, il principale fiume naturalmente è l'Adige, che oggi dà il proprio nome alla porzione di territorio che si estende appunto da Passo del Brennero a Salorno. Il fiume Adige ha una lunghezza di 409 km ed è alimentato da un bacino imbrifero di 11.000 km quadrati. Scorre nella provincia di Bolzano per solo 150 km per sfociare poi nell'Adriatico. Lungo il suo corso, nell'Alta Val Venosta, si trovano molte colture di verdure e segale, mentre nella media e bassa Val Venosta e nella Val d'Adige si notano numerose estensioni di frutteti. Nel XX secolo, lungo il fiume, sono state create importanti opere di sbarramento che hanno alterato il paesaggio e il rapporto dell'uomo con il fiume. Le più importanti, ricordiamo, sono le derivazioni dell'Adige al lago di Resia, al lago di San Valentino e presso l'Asa. Già le grandi trasformazioni della metà dell'Ottocento, in particolar modo la costruzione della linea ferroviaria, avevano avuto come esito un cambiamento epocale per l'Adige, come per tutte le vie d'acqua. modifiche che hanno consegnato le attività fluviali ad un ruolo marginale nella rete dei traffici prima e a mere rievocazioni poi, in alcuni casi più pittoresche che non attentamente documentate come si può vedere oggi. In realtà però la fluitazione ha delle radici molto antiche. Come ho detto, prima di soffermarci attentamente a parlare dell'Adige, è importante precisare che c'erano due tipi di fluitazione. Ed infatti nella lingua tedesca ci sono due parole che la indicano. La condotta del legname con le zattere è detta flusserei, quella invece libera è chiamata trift. Mentre in italiano il termine è unico. La fluitazione libera era utilizzata esclusivamente, come potete vedere da questa incisione del XIX secolo, per il trasporto del legname che veniva inacquato nei torrenti alpini. Qui è necessario dedicare alcuni passaggi per capire l'importanza appunto di queste pratiche per le società di antico regime. Nella provincia di Bolzano oggi la superficie boschiva occupa il 49% della superficie produttiva. I boschi, alternati a frutteti, vigneti, campi, malghe e prati, costituiscono una componente essenziale del paesaggio altoatesino. Da essi si ricava appunto una materia prima in continua rigenerazione, che rappresenta una fonte di reddito per i proprietari boschivi e dà lavoro a parecchie persone. Un tempo la sua importanza era anche maggiore, sia per il suo utilizzo nelle costruzioni, quindi pensate agli edifici, alle navi, alle zattere, le ruote dei mulini, gli attrezzi da lavoro, l'uso domestico, quindi il riscaldamento, ma anche la cucina, e quello industriale, o meglio pre-industriale, quindi tutte le fucine, le vetrerie, le zecche, le miniere. Tra la contea del Tirolo, in particolare tra la parte meridionale occupata oggi dalla provincia di Bolzano e la parte orientale, l'Osttirol, per tutto il Medioevo e fino alla fine dell'antico regime, fino appunto alla fine anche dell'Ottocento inoltrato, ci fu un importante flusso commerciale con la pianura italiana. Esso era imperniato sul commercio fluviale sull'Adige, sul Brenta, su parte del Piave, sul Chiese e sul Sarca, sui quali venivano trasportati appunto questi legnami che erano destinati alle città di Verona, di Padova, di Venezia e di Brescia. Qui vedete questa pianta della città di Venezia, che è un'incisione del XVII secolo, che è conservata al Museo Correr, in cui si vede appunto l'arsenale. Dalla capitale della Repubblica Veneta, oltre a trovare impiego nelle molteplici attività e nel cantiere navale dell'arsenale, questa materia prima che veniva dalle valli alpine era esportata verso l'Italia meridionale, quindi ci sono queste correnti commerciali verso la Puglia, il Regno di Napoli, di Malta, la Grecia, l'Egitto. E sappiamo che ancora nell'Ottocento dal Sud Tirolo venivano esportati legnami che andavano fino in Africa, in Barberia. Attualmente si possono ancora trovare nell'Archivio di Stato di Venezia, ad esempio, questi libri di carico delle navi, anche se sono veramente documenti rarissimi, che testimoniano come appunto sulle navi venissero imbarcati legnami destinati in Sardegna, ad esempio. Da Verona i legnami fluitati sull'Adige venivano poi esportati verso Mantova, Cesena, Ferrara, Ancona, come testimoniano documenti del XIV secolo. Al fine di monetizzare diciamo, i profitti che provenivano dai dazi sulle esportazioni, gli arciduchi d'Austria, che erano anche conti del Tirolo, a metà del Cinquecento fecero istituire tutta una serie di dogane presso e degli uffici del legname. Ecco, qui vedete un'altra immagine, sempre che proviene dal Museo Correr, che attesta appunto la corporazione dei falegnami. Questa è sempre un'incisione di una zattera che è arrivata appunto in città a Venezia e viene ormeggiata sulla riva delle zattere, che era appunto il porto dove veniva stoccato il legname che arrivava dalla via del Brenta. Questa invece è un'immagine che raffigura sempre l'arrivo dei legnami che vengono dall'arco alpino e che vengono stoccati sulla riva delle fondamenta nuove. E qui appunto sappiamo che era il porto di raccolta dei legnami che arrivavano dal Piave. Ecco, qui vedete una immagine di una carta che raffigura il territorio dell'antico Tirolo con le dogane istituite a metà del Cinquecento dai conti tirolesi. in base appunto alla dimensione dell'Aquila tirolese, capite appunto quali erano gli uffici doganali più importanti per l'erario statale. Ad eccezione di l'unico ufficio che venne istituito a Pinzwang sul Lech, quindi siamo nel Tirolo settentrionale e sul fiume che portava appunto le risorse verso Augusta, tutti gli altri uffici erano dislocati nella fascia confinaria del Tirolo meridionale, quindi al confine tra lo Stato Veneto e la Contea del Tirolo. Quattro ce n'erano lungo l'Adige, quindi Laives, Bronzolo, Egna e Rovereto, due lungo il Brenta, uno a Grigno e uno a Covolo, e ce n'era uno sull'Avisio a Fiemme, uno a Dobbiaco sul Rienza e infine uno in Primiero sul torrente Cismon. Per controllare questi uffici che dovevano appunto incassare i dazi che venivano percepiti sulle esportazioni dei legnami fluidati sulle vie d'acqua, nel 1579 venne creato un ufficiale che si chiamava Generale Supremo alle Selve, Innerhalb der Brenner, che aveva appunto competenza su tutti i dazieri che dovevano appunto sorvegliare questi uffici doganali. Le sue competenze andavano appunto dal controllo dei boschi e del commercio del legname fino appunto alle misure per adottare per limitare il contrabbando, l'ispezione dei sentieri, delle mulattiere e delle vie d'acqua lungo i passi di San Pellegrino e di Valles, lungo i fiumi Astico e il fiume Brenta. Quindi questo funzionario che risiedeva nel territorio tirolese era incaricato espressamente dagli arciduchi d'Austria di recarsi fuori dallo Stato, quindi anche a Verona, a Padova e a Venezia, per controllare l'andamento del mercato del legname, che era appunto la principale risorsa per l'economia tirolese dell'epoca, almeno per la parte meridionale. Al generale supremo delle selve facevano capo 12 dazieri e 7 cosiddetti controscrivani, che si trovavano quindi su tutti i fiumi strategici del Tirolo, quindi l'Avisio, l'Adige, il Brenta, il Cismone, il Noce e il Rienza. La dislocazione strategica di tutti questi uffici doganali ci fa capire quanto fossero importanti appunto i pedaggi sulla legna esportata e qual era l'interesse riservato a questa materia prima dalle autorità tirolesi verso appunto il commercio con Venezia e con l'Adriatico. Sul reticolo fluviale della regione era imperniata l'attività economica principale del Tirolo. Vediamo come. La fruitazione libera era dei legnami dei boschi altoatesini era praticata sul Passirio, quindi sul torrente che insiste su Merano, sul Gadar in Valbadia, sul Rienza in Valpusteria, sul Solda in Val Venosta, sul Val Schauer in Val d'Ultimo e anche naturalmente sui corsi d'acqua minori. I documenti che attestano tale attività risalgono al XIV secolo e testimoniano della simbiosi tra l'uomo e l'ambiente circostante, di cui oggi restano solo le più antiche attestazioni che precisano i pedaggi da pagare, le liti tra i comuni e i danni delle piene del fiume. Non è più possibile ricostruire la pratica di questi lavori, l'abilità tecnica e le difficoltà per l'uomo. Questa ricostruzione può essere quindi solamente storica per la mancanza delle testimonianze dirette, che avrebbero potuto dirci molto sull'ambivalente rapporto tra l'uomo e le acque. In Alto Adige la fluitazione libera, quindi la drift, era molto diffusa sia nei grandi che nei piccoli corsi d'acqua. Durante queste spedizioni i tronchi venivano gettati in acqua e poi raccolti in precisi punti dove erano stati installati dei rastrelli che venivano chiamati rechen, posti obliquamente al letto del fiume. Nei piccoli corsi d'acqua, invece, per aumentarne la portata, erano costruite delle chiuse, che erano dette clausen oppure stue, che raccoglievano l'acqua e ne aumentavano la quantità e la forza. Voi vedete praticamente nella parte alta della diapositiva, dove si stringe la valle, insomma, i due lembi di territorio, che c'è un piccolo rastrello, appunto, che si vede appena appena, che di fatto blocca questa grande quantità di legname che veniva esportato su questo torrente che scendeva dal Tesino verso la piana bassanese. In precisimo, allora, queste chiuse praticamente erano costruite di legno, di pietra o di muschio e formavano un lago artificiale, quello dove vedete adesso che sono raccolti i legnami, e bloccavano la fluitazione. In precisi momenti dell'anno venivano aperti per portare a valle con maggiore intensità i legnami che erano raccolti dietro lo sbarramento. Naturalmente i momenti precisi per la fluitazione venivano regolamentati attraverso tutta una serie di disposizioni normative, per cui venivano emessi degli avvisi per specificare che quando sarebbe iniziata la fluidazione, in modo che da avvisare anche le popolazioni locali di queste attività, che in genere venivano fatte nei periodi di massima portata delle acque. Quindi attorno a tutta questa attività ruotava l'economia dei distretti montani. C'è da dire che il livello dell'acqua poteva essere regolato attraverso delle porte di scarico e nei casi di forte pioggia o di piene gli operai poi dovevano occuparsi di far defluire il legname per evitare che esso distruggesse la chiusa. Quanto le vie d'acqua e il legname fossero in stretta simbiosi lo dimostra il fatto che la fluidazione era regolata dagli ordinamenti forestali, che le fonti antiche chiamano Waldordnungen. Nel 1541 fu emanato l'ordinamento per il legname per i boschi dell'intera contea del Tirolo, che costituì la base per le successive... Nel 1541 fu emanato questo ordinamento e questo costituì la base per i successivi ordinamenti e per le revisioni, una del 1626, la successiva del 1685 e rimase in parte in vigore fino al 1847. La normativa emanata appunto per la contea prevedeva che il Driftmeister, cioè l'incaricato a guidare una condotta sul torrente, prendesse in carica il legname giunto a riva e sorvegliasse affinché esso non fosse lasciato incustodito. I Waldmeister, che erano chiamati in italiano dell'epoca, quindi in italiano cinquecentesco, supremi alle selve, dovevano sorvegliare il lavoro dei Driftmeister, controllare quelli degli addetti e regolare i loro salari settimanalmente. In seguito alle alluvioni o alle piene, dovevano anche occuparsi di far recuperare il legname disperso dai contadini del luogo, i quali dovevano però essere remunerati per questi incarichi. Questo ordinamento regolamentava gli usi per l'intera contea del Tirolo, ma in realtà ogni giurisdizione aveva dei propri privilegi e delle proprie consuetudini. In alcuni casi gli antichi signori feudali obbligavano i sudditi a condurre i legnami per loro conto i legnami, come ad esempio la badessa di Sonnenburg obbligava i contadini della Valbadia a fare le condotte per proprio conto. Gli abitanti dei villaggi godevano però anche di alcuni diritti, come fruitare i loro legnami per proprio uso nell'alto corso del fiume Isarco. Qui vedete, ad esempio, sappiamo che fino al 1376 i cittadini di Bressanone potevano fruitare il legname del Mauserpach alla città, ma in seguito dovettero richiedere un'autorizzazione e quindi pagare ovviamente un pedaggio per poter fare le condotte che precedentemente erano libere. Erano marchiati questi tronchi, altrimenti come li sì, ritrovavano? Sì, praticamente, ecco. Sì, ecco, se apriamo una parentesi, sì, praticamente nel momento in cui il legname veniva abbattuto nei boschi, l'imprenditore mercantile che aveva comprato dai conti tirolesi e i diritti di taglio faceva apporre un marchio mercantile con una piccola cetta e ogni appunto imprenditore aveva il proprio marchio e una volta portato il legname e condotto sul fiume e poi fluitato lungo i depositi, una volta arrivato nelle zone dove si riscuotevano i dazi, venivano poi imposti e pagati i dazi in base al marchio mercantile, quindi veniva distinto il legname in base a questo marchio mercantile. In alcune giurisdizioni, ad esempio quelle cadorine, anche le famiglie contadine avevano il proprio marchio che era il segno di casa, si chiama noda da legno, e quindi avevano appunto questo segno che era identificativo della proprietà del legname. È raro, ma insomma qualche volta si trova negli antichi edifici cinquecenteschi, è possibile scorgere sulle travi in legno delle volte, qualche volta si possono ancora vedere questi marchi che ricordano appunto le proprietà. Dai documenti che abbiamo a disposizione richiamiamo quanto fosse contraddittoria la politica del governo tirolese, divisa tra la pratica dell'intenso sfruttamento dei boschi, la necessità della sua salvaguardia per conservare un patrimonio appunto di lenta rigenerazione e quanto diffuse e serpeggianti fossero le lamentele dei sudditi. Proteste e recriminazioni arginate dai signori con l'imposizione ai mercanti che compravano il legname di assumere manodopera locale. provvedimento che non supiva però i disagi, se c'era appunto chi bruciava il legname, chi sabotava le strutture per la fluidazione o ancora chi si rifiutava di sottostare alla corvée di appunto trasportare i legnami per conto del vescovo di Bressanone. Le condotte sui fiumi naturalmente servivano anche a rifornire di legname le città poste e i centri posti più a valle, come Bolzano e Merano ovviamente erano i due centri principali. Per questa attività doveva essere pagato però un tributo al principe. Ad esempio sappiamo che nel 1316 la concessione che ottennero due abitanti della Val Passiria di condurre il legname sul fiume Passirio dovette essere, diciamo, compensata con 200 tronchi di legname da consegnare al castello di Zenoberg presso Merano. Per le città e per i villaggi, naturalmente, però, era di importanza primaria disporre delle riserve che scendevano dai boschi montani e molto spesso sorgevano liti e conflitti. Merano, durante la guerra contadina del 1525, quella nota, insomma, la guerra contadina di Michael Geismayer, che vide le città e i villaggi opporsi al principe territoriale, presentò appunto nella dieta contadina del 1525, tra le tante lamentele, una lamentela contro i furti di legname commessi a loro danno. Il documento antico ci dice così: se il legname di un cittadino, per volontà di Dio o per trascuratezza, fluita lungo il Passirio e va a finire nell'Adige, a sud della città, alcuni delle comunità e soprattutto quelli di Castel Lebenberg si appropriano di questo legname con violenza e quelli di Merano e altri restano senza. Come vedrete anche dalla documentazione, se avrete poi il piacere di visitare le mappe storiche dell'Archivio di Stato, vi renderete conto che la documentazione legata alle liti è appunto forse la più numerosa. Ad esempio nel 1442 sappiamo che gli abitanti di Glorenza entrarono in conflitto con il signore di Lichtenberg perché questi rivendicava l'uso esclusivo della fluidazione sul Solda. A quanto risulta dalle testimonianze raccolte dagli studiosi locali, sul Val Schauer, il torrente che attraversa la Val d'Ultimo per circa 41 km, la fluidazione è stata una pratica utilizzata ancora fino agli anni 50 del Novecento. Oggi il bacino imbrifero del torrente è caratterizzato da numerosi laghi artificiali, dai quali viene derivata l'acqua, utilizzata da 5 centrali idroelettriche. Alla confluenza del torrente, appunto il Val Schauer, nell'Adige, nei pressi di Lana, esisteva un importante rastrello che serviva per bloccare i legnami, che potete osservare in una foto d'epoca che si trova qui riprodotta nella diapositiva e che proviene da uno dei numeri dello Schlern. La pratica della fluidazione libera era diffusa in tutte le valli del Tirolo meridionale. Anche nella zona della Val Pusteria e della Val Badia era praticata questo trasporto libero di tronchi a uso dei villaggi e delle attività locali, sia sul Rienza, il principale affluente dell'Isarco, sia sul Gader, il torrente della Val Badia. In questa zona però era praticato anche un vivace traffico verso la pianura italiana, sia nel distretto di Dobbiaco e di San Candido, che in quello di Ampezzo Heiden, di Livinallongo Buchenstein e di Turnan del Gader, quindi di Torre Gadera. Gli organismi che anticamente gestivano le finanze della Contea del Tirolo e quelle del Principato Vescovile di Bressanone vendevano, come detto prima, i diritti di taglio. E qui, in questo documento che proviene dal Tiroler Landesarchiv di Innsbruck, vedete appunto questa reversale, questo documento in cui un mercante veneziano si impegna a fare un acquisto di diritti di taglio in Val Pusteria, a Tiglia e in Val Pusteria, per condurli poi verso i porti del Piave, attraverso i percorsi in queste valli tortuose, e utilizzando poi buoi, carri e forza umana e forza dei cavalli. E gli organismi finanziari, come detto, appunto, vendevano i diritti di taglio, esigevano gli importi delle concessioni e in più incassavano i dazi per l'esportazione. I dazi per l'esportazione, appunto, che sono annotati in questo elenco dei dazi che proviene dalla giurisdizione del Primiero tra il 1580 e il 1608, anche questo conservato al Tiroler Landesarchiv. i contratti che venivano stilati a Venezia davanti ai notai veneziani tra i mercanti trentini, tirolesi e i mercanti veneziani per le forniture, ci attestano che da Sesto Pusteria venivano esportati appunto trasportati i legnami con i buoi fino a Passo Monte Croce di Comelico, da qui erano condotti fino a Padola, quindi siamo a Padola che è una località posta lungo l'affluente, uno degli affluenti del Piave, e poi venivano inacquati per raggiungere i principali porti sul fiume. Questa è appunto una cartolina che attesta la stua in pietra che esisteva sul Padola, che è appunto la medesima struttura che vi ho fatto vedere prima, che era in legno, qui viene costruita in pietra e si vede bene che appunto aveva queste porte di scarico per regolare il flusso dell'acqua e che venivano poi aperte nei momenti in cui venivano fatti defluire i legnami a valle. Lo stesso accadeva in Ampezzo, quindi stiamo parlando di Heiden, nell'Ampezzo tirolese, diciamo, che come il Livinallongo, da partire dal XVI secolo fino al 1918, fu uno dei distretti della Contea del Tirolo. Queste attività di condotta lungo i fiumi continuarono fino agli anni 80 dell'Ottocento, e a partire da questi anni, quando venne costruita la ferrovia, sappiamo che venne utilizzato il treno per condurre appunto il legname della Valpusteria fino a Cortina, e da Cortina poi veniva inacquato nel Boite, tributario del Piave, che si gettava appunto nel Piave nei pressi di Perarolo, che era uno dei centri principali delle segherie della Repubblica Veneta. Invece i boschi di Antermoia, quindi siamo in Valbadia, e altri boschi della Valbadia venivano portati con i buoi e i cavalli fino al passo di Campolongo, da qui trasportati dal passo venivano portati fino a Ruaz, dove c'era un'importante stua, inacquati nel Cordevole, e anche qui il Cordevole, appunto un tributario del Piave, venivano spediti a Venezia. Potete capire quale grossa interesse ruotasse appunto attorno a questo tipo di attività e quanto importante fosse questa fonte di reddito anche per le popolazioni locali. Veniamo invece adesso all'altro tipo di fluidazione, cioè la fluidazione legata, quella che veniva fatta con le zattere. I trasporti con zattere e con naves sono attestati per l'Adige già a partire dal XII e dal XIII secolo, così come la loro organizzazione da parte dei vescovi di Trento. E qui potete vedere il più antico documento che attesta la navigazione dell'Adige, che è una pergamena conservata nell'Archivio di Stato di Trento. Già nel XIII secolo i navigatori e gli zattieri dell'Adige avevano costituito una società con determinati privilegi e obblighi verso il principe vescovo. Nel 1584 il conte del Tirolo, cioè l'arciduca Ferdinando II d'Asburgo, accordò il monopolio della spedizione delle merci sulle zattere fino a Verona ai cosiddetti speditori di Sacco, una comunità presso Rovereto. Naturalmente i mercanti avrebbero preferito affidarsi a speditori con tariffe più vantaggiose, tuttavia il privilegio e la fortuna di questa società si protrasse per secoli. I principi favorirono probabilmente una sola compagnia perché era più controllabile e garantiva i sicuri dazi per le esportazioni doganali, la manutenzione e la pulizia del fiume e la regolarità soprattutto del trasporto fluviale, che era fondamentale per una città mercantile come Bolzano. Questa concessione, che è chiamata privativa, venne rinnovata più volte nel corso dei secoli e poi venne rivista nel 1744 dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria, che autorizzò solo alcune famiglie di Sacco a continuare la spedizione delle merci. E qui vedete appunto una copia del privilegio che si conserva nella Biblioteca Comunale di Trento, in cui vengono nominate appunto le famiglie che sono ormai esclusivamente titolari di questo diritto di condotta. Gli spedizionieri erano contemporaneamente conduttori di merci e mercanti di legname. Gli speditori di Sacco, lo prevedeva proprio espressamente il loro privilegio, godevano del monopolio di acquistare legname da Nova Levante, Nova Ponente, San Nicolò d'Ega e Valdagno per fabbricare natanti. Esso, questo legname, si vendeva sui vodi, cosiddetti vodi, che erano questi depositi di Laives e di Bronzolo. In questa diapositiva vedete un acquarello che riproduce il porto di Bronzolo nel XVII secolo e appunto potete vedere che ci sono appunto i depositi con il legname nella parte sinistra, diciamo, in basso, e poi ancorate alle rive dell'Adige le zattere in sosta. Naturalmente il monopolio di cui godevano questi mercanti di sacco era insidiato soprattutto dai mercanti veronesi, che si recavano nei fondachi per accostare direttamente questa materia prima, scavalcando poi gli speditori di sacco. Naturalmente gli abitanti dei villaggi, quando potevano, preferivano vendere a chi pagava il legname ad un prezzo più alto e garantiva quindi anche l'importazione di cereali nelle vallate alpine. Gli esempi si possono moltiplicare. In questa sede voglio semplicemente rifarmi ad un episodio del 1785, quando i contadini di Nova Levante avevano venduto il legname del bosco di Latemar e lo avevano fatto portare espressamente al passo di San Pellegrino, quindi l'avevano fatto condurre fino alle rive del Cordevole e poi dal Cordevole al Piave, percorrendo un centinaio di chilometri in quota, superando creste e valli con immani fatiche. Questo esempio naturalmente è del bosco del Latemar. È solo uno degli esempi, perché come vi dicevo le pratiche si attestano anche in altre aree, cose che a noi sembrano assolutamente impensabili. Naturalmente la richiesta di materia prima e i prezzi dovevano avere dei livelli altissimi per rendere economico un trasporto in condizioni disagevoli e quasi proibitive, per le nostre logiche e senz'altro anche per quelle dell'epoca. Come vi ho detto, sull'Adige viaggiavano barche e zattere. Le barche però erano usate solo in periodi particolari. Il regolamento settecentesco imponeva alla compagnia degli spedizionieri di usare le barche solo quando non erano sufficienti le zattere. La motivazione era di tipo fiscale, perché su di esse gravava un importante tributo doganale, il dazio di esportazione del legname, che dava appunto notevoli introiti alla contea, i cui pagamenti erano regolati nelle fiere di Bolzano. Gli stessi spedizionieri preferivano servirsi delle zattere perché una volta giunte a destinazione potevano rivenderne i legnami. Come potete vedere da questa incisione della fine dell'Ottocento, questa è Bolzano, in cui vediamo appunto una zattera che transita sul fiume. Questi natanti erano usati in acque che avevano una profondità di almeno un metro e con un regime regolare. C'erano diversi tipi di zattere, come vedrete. Qui ad esempio è una particolare di una mappa di Jacopo da Ponte, un'incisione su legno della metà del Cinquecento, in cui si vedono le zattere in sosta presso il ponte di Bassano, presso il ponte del Palladio di Bassano. C'erano appunto diversi tipi di zattere e ciò dipendeva dalle caratteristiche dei fiumi su cui viaggiavano, dalle correnti, dai banchi di sabbia e più in generale dalla morfologia del fiume. Sempre questa è sempre un acquerello di Francesco da Ponte, il padre di Jacopo da Ponte, che illustra una zattera in transito sul Brenta che trasporta dei barili di vino, si suppone, ma si potrebbe essere anche dei barili di carbone, perché in realtà sappiamo che il barile, appunto questo contenitore, era usato anche per trasportare, oltre appunto carbone, vi dicevo, anche stoffe, tessuti ad esempio. Le zattere usate sull'Adige erano di tre tipi: c'erano i radi, le zattere e gli zattelli cosiddetti. Esse erano costruite assemblando diverse essenze di tronchi che venivano forati in testa ed in coda sui piazzali di deposito e poi spinti in acqua mediante appunto un attrezzo robusto e allungato che terminava con un uncino. Il rado era formato da legnami lunghi, quindi travi lunghe dai 12 ai 13 metri, che erano tenute insieme da tronchi più piccoli, che venivano chiamati catene e cantieri, che servivano a mantenere il piano della zattera il più possibile sopra il pelo dell'acqua per evitare che si bagnassero le merci. Le zattere erano costruite da uomini esperti che dovevano conoscere il fiume, le sue sponde, le anse e le correnti. Per legare i tronchi, gli zattieri usavano delle ritorte di polloni, di nocciolo o di salice. Le zattere potevano essere formate da una o più unità. Qui le vedete, qui vedete che è formata da quattro unità separate che si chiamavano coppole, che consentivano quindi a questo natante di essere più snodabile, di seguire la corrente. Potevano essere lunghe fino a 28 metri, nella parte anteriore erano circa 5 metri, in quella posteriore erano larghe 6 metri ed erano manovrabili servendosi di 4 più remi. Nei periodi di magra invece venivano usate delle piccole zattere, come questa per esempio, è una zattera sul Piave, che appunto vedete è una di piccole dimensioni. Che cosa si trasportava? Naturalmente barili di rame, cereali, tessuti, prodotti scambiati nelle fiere. Qui ad esempio vediamo invece una rappresentazione delle barche sull'Adige, che però riguarda la parte bassa dell'Adige nell'area veneta, e questa è una mappa che viene dall'Archivio di Stato di Venezia. Le merci italiane e le merci tedesche dovevano essere pesate alla stadera pubblica di Bolzano e poi accompagnate a bollette di carico che indicavano qualità, tipo di prodotto e dazio cui dovevano essere sottoposte. Se vedete questo acquerello del 1541, potete notare in basso a sinistra il castello di Sigmundskron, quindi Castel Firmiano con il ponte coperto, e nella parte alta noterete il ponte sul Talvera, anche se in realtà la mappa non è nitidissima, e quindi il ponte Talvera praticamente. Scusa, dove era la stadera? Com'è? Ah, la stadera era nella piazza pubblica vicino a Piazza del Grano, in Piazza del Grano. Sì, la stadera era una bilancia, diciamo, ecco, per misurare, per pesare le merci. Le zattere potevano trasportare anche solamente del legname, quindi grezzo, semilavorato, da ardere o carbone di legna. Sappiamo che in base alle conversioni delle misure, perché naturalmente in epoca antica non veniva usato il sistema metrico decimale, ma con le tabelle di conversione è stato calcolato che potevano trasportare fino ai 120 metri cubi di legname, che corrispondevano a circa 720 quintali di legname secco. Nel caso dell'arice invece le quantità dovevano essere ridotte perché questa essenza pesa molto di più. I carichi più pesanti venivano posti nella parte posteriore della zattera. Questo natante veniva governato da un capozattera che nel caso dell'Adige doveva essere originario di Sacco. Egli si serviva di diversi uomini. Tra Bronzolo e Sacco esse erano condotte in genere da quattro zattieri, ma talvolta il loro numero doveva essere più alto per la portata del fiume. A Grumo, presso San Michele, potevano essere imbarcati uno o due uomini per coadiuvare nel difficile passaggio nei pressi di Zambana, i quali poi scendevano a Trento. Da Sacco a Serravalle c'era bisogno di 8 uomini, ma da lì a Parona, a nord di Verona, ne bastavano di nuovo 4 o 5. Quando la zattera si incagliava nei banchi di sabbia o non poteva navigare perché l'acqua non era abbastanza profonda, gli uomini dovevano calarsi nel fiume per rimetterla in viaggio. Se disincagliare la zattera diventava impossibile, essa veniva smontata e con legname recuperato se ne creavano delle di zattere più piccole. In base alle condizioni del fiume potevano volerci dalle 6 alle 8 ore per raggiungere Sacco da Bronzolo, ma in genere si impiegava una giornata o una giornata e mezzo, perché si facevano molte soste per scaricare le merci. Da Sacco a Parona o a Pescantina di ore ce ne volevano dalle 5 alle 6. La navigazione però di notte era sospesa, anzi era assolutamente vietata, le zattere dovevano essere tirate a riva e sorvegliate attentamente. Le barche invece erano fornite dalle arti nautiche di Pescantina e di Trento. I natanti scendevano il fiume utilizzando la corrente, per risalire invece dovevano essere trascinate da 10 o 12 cavalli. I costi di trasporto con le barche erano maggiori. I tempi di percorrenza erano naturalmente diversi. Da Bronzolo a Trento ci si impiegava mezza giornata, per recarsi invece da Trento a Verona c'era bisogno di un viaggio di 2 giorni. Al ritorno il viaggio poteva durare dai 2 ai 4 giorni. Comunque questi viaggi erano naturalmente sempre più veloci di quelli via terra e quindi competitivi sul piano appunto economico per gli operatori. La navigazione però era difficile ed era rischiosa. Alcuni punti erano particolarmente insidiosi per i pericoli di naufragio e i danni alle merci trasportate. Le piene poi trascinavano via gli argini e gli eventuali sbarramenti costruiti sulle rive che andavano ad invadere il letto del fiume provocando ostacoli alla navigazione. Nei momenti di secca i problemi non erano da meno, soprattutto in inverno quando il livello del fiume era basso, in vari punti dell'acqua si formavano dei vortici che attiravano le zattere e che mettevano in pericolo gli uomini e i carichi. C'erano poi anche alcuni punti pericolosi dell'Adige, specialmente nei pressi dei ponti, come ad esempio al ponte di Gmund fra Termeno ed Ora, e inoltre quelli di Egna e di Salorno, perché qui i natanti rischiavano di sfracellarsi contro i pilastri del ponte, appunto. Le zattere che navigavano l'Adige erano assemblate in diverse località. I luoghi dove i legnami erano messi in secca si chiamavano, o dove attraccavano le barche, venivano chiamati in tedesco Lent. Ma in realtà in Alto Adige viene usato anche il termine Raif, la voce che richiama il termine italiano di riva. Sappiamo che dalla documentazione già nel 1181 a Egna appunto esisteva uno di questi campi dove venivano preparate le zattere. Oltre a Bronzolo, che era lo spiazzo principale, i tronchi venivano legati a lana, però solo molto di rado, a Postal, a Gargazzone, a Nalles. A sud di Bolzano, invece, le località dove venivano allestiti erano Ora, come vi ho detto Egna, Laghetti, Salorno, Grumo, San Michele, Nave San Felice, La Vis, Trento e Sacco, dove scrive Michelangelo Mariani nel 1670, tutto l'anno, massimo in tempo di fiera, si teneva un flusso e reflusso di zattere e barche per il commercio che passa tra Verona e Bolgiano, principalmente potendosi dire con verità che questa sia il più bel porto mercantile del Tirolo sopra l'Adige. Il privilegio della compagnia di Sacco stabiliva che gli zattieri impiegati nella condotta fossero tutti di quel luogo. Ma in realtà sappiamo che erano reclutati anche uomini di altri villaggi in base all'esigenza dei traffici. Gli zattieri di Bronzolo, dopo aver legato le zattere, le conducevano fino a Sacco, dove erano prese in carico dagli uomini di quella località, che si occupavano poi della condotta fino a Parona o a Pescantina, a nord di Verona. Il tragitto a sud era seguito poi dagli zattieri di Verona. Ma le zattere nella parte meridionale del fiume, cioè a sud di Verona, erano in grado di trasportare solo piccole quantità di merci, in quanto il fiume era deviato da numerosi canali di irrigazione delle campagne. Un'altra via d'acqua che era importante per i commerci tra l'area Trentino-Tirolese e la pianura era quella del lago di Garda, attraverso cui sappiamo erano importati grano ed olio verso nord. A Sacco vi era poi lo scalo per le merci frittate sull'Adige, che venivano redirette a Torbole e da qui nel Bresciano, nel Bergamasco e nel Milanese. A partire dalla seconda metà del Settecento, Bolzano e l'Adige perdono porzioni significative di traffico a favore di altri canali, favoriti dalla politica economica della monarchia asburgica, che sceglie di rafforzare il porto di Trieste e di Fiume a scapito di Venezia, perché appunto questi appartenevano alla corona austriaca. Nei traffici via terra, le fiere di Bolzano subiscono un ridimensionamento anche a causa del progressivo affermarsi delle fiere di Chiavenna, che erano collegate meglio con il milanese, austriaco e con i domini lombardi della Repubblica Veneta. Oltre a questo, il miglioramento della rete stradale erode almeno in parte il grande vantaggio del trasporto sull'acqua. Al momento della soppressione del privilegio, nel 1806, per decisione del governo bavarese, i volumi di traffico sull'Adige sono ormai notevolmente ridimensionati. Tuttavia la navigazione continua nel tempo e venne affidata a imprenditori privati. Come vi dicevo all'inizio, la costruzione della linea ferroviaria che attraversa la Val d'Adige nel 1859 porta a una drastica diminuzione del numero dei natanti. La fluttuazione continua nei decenni successivi, ma i numeri furono progressivamente ridotti. Dalle testimonianze raccolte da alcuni studiosi locali e pubblicate sulla rivista Der Schlern, si ricava che l'ultima zattera partita da Gargazzone risale al 1901, mentre quella salpata da Bronzolo per raggiungere Grumo fece il suo ultimo viaggio nel 1913. Qui, prima di chiudere, vorrei aggiungere una breve parentesi dedicata all'Esarco e così poi chiudere questa carrellata. L'Esarco naturalmente non era navigabile con le zattere e da questa testimonianza, di questa foto degli inizi del Novecento, sappiamo appunto che poteva essere navigato con delle piccole imbarcazioni solamente nel suo tratto inferiore. Oggi il fiume è un fiume che praticamente ha una lunghezza di 95 km ed un dislivello di oltre 1700 metri. Questo lo rendeva nei tempi passati un fiume estremamente impetuoso e appunto rendeva impraticabile la navigazione. Oggi esso è stato derivato per gli usi agricoli e nella parte bassa è imbrigliato nella stretta valle che oggi è occupata dall'autostrada, dalla ferrovia e dalla strada statale. Sono stati costruiti naturalmente anche numerosi impianti idroelettrici a Fortezza e a Chiusa. A Ponte Gardena sappiamo poi che il fiume è sbarrato ed una parte delle acque è deviata. Quindi l'Adige e l'Isarco di fatto ha perso l'antica forza come anche gli altri fiumi dell'arco alpino. Gli unici natanti utilizzati, appunto come ci dicono le testimonianze, erano appunto, oltre a questa piccola barca che vediamo qui, delle piccole zattere che venivano allestite a Monte di Cardano. Qui, in una località che veniva chiamata Parchon, nei pressi delle cosiddette Vesce Seghen, le segherie italiane, che dovevano essere molto simili a questo impianto che adesso si trova ancora in Carinzia, si trovava appunto un rastrello che serviva per bloccare i legnami fruttati nelle sue acque. In quest'area, appunto a nord di Cardano, venivano legate queste piccole zattere che venivano poi incanalate verso l'Aives e verso Bronzolo. L'ultima zattera appunto che transita però sull'Isarco risale al 1882 per mano degli zattieri di Bronzolo e fu condotta fino a Badia Polesine nel 1882 da Jacob Scrinzi, che apparteneva appunto a una famiglia che aveva esercitato questa professione per secoli. Quindi io con questa conclusione direi di ringraziarvi della vostra attenzione, eventualmente se volete farmi delle domande sono a vostra disposizione. Grazie. Poi quando ha detto dovevano essere di Sarco, cioè presume che venissero da Sarco o dovevano essere no, di Sarco? No, allora le domande, allora facciamo, procediamo così. L'ultima persona di che ho citato è Jacob Scrinzi, ed è questo zattiere dell'Isarco. Invece per quanto riguarda il privilegio di Sacco, no, la normativa, cioè la privativa, la concessione prevedeva proprio che loro dovevano essere di questo paese, di Sacco. Però naturalmente la privativa, cioè il documento, la normativa prevedeva questo, però di fatto le deroghe insomma facevano sì che nei momenti di particolare intensità commerciale venissero assunte anche altri operatori, che però dovevano essere particolarmente abili perché era un'attività particolarmente difficile. Così questo Jacob Scrinzi era di Bolzano? Possiamo supporre che fosse di Bronzolo, visto che appunto era questa compagnia di zattieri di Bronzolo. Ah, ecco. È di Bronzolo. Siccome ho dei tariffi questa è fa parte dell'archivio fotografico della Giunta. Ecco dove è stata ripresa. Questa praticamente è questa barca che si trova sull'Isarco. Io credo che sia. Secondo me dovrebbe essere a nord della stazione di Bologna. vedevo la montagna, però nella parte che è no, perché è sull'Isarco, per cui sull'Isarco si getta nell'Adige, qui a sud di Bolgiano. Queste notizie le posso